manja. Belai di belai di belai hati rasa berbunga. Belai di belai di belai cinta bertambah mesra. Begitu indah takkan terlupa. Belai di belai di belai. Begitu indah takkan terlupa. Belai di belai di.